Sì, è carina. Ma io ho visto le foglie cadere ieri. Ero su, davanti alla porta della terrazza aperta, e ho guardato fuori e ho visto le foglie staccarsi e cadere. Erano gialle gialle. E mentre cadevano, seguivo la traiettoria e avrei voluto essere vicino per sentirne il rumore. Sembrava tutto fermo, sospeso, come se il cielo, le cose intorno, si fossero fermati, come me. Ho visto le foglie cadere ieri. Stiamo